Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 27 aprile 2015. Cibo sano. I ragazzi italiani hanno imparato l'educazione alimentare. Gli adolescenti italiani migliorano i loro comportamenti a tavola. E questo è il bilancio tracciato, quando manca poco più di un mese alla fine dell'anno scolastico, da un'indagine che ha verificato i comportamenti effettivi, a mensa e a scuola, da parte di 4.000 studenti. Il risultato è stato ottenuto, secondo quanto emerso dall'indagine, grazie anche alla revisione delle politiche per l'educazione alimentare, lanciata in Italia all'inizio del 2013, dopo la pubblicazione delle conclusioni del progetto europeo Eat Well. Si è scelto di puntare di più sulla cooperazione tra scuola e famiglia e sulla qualità delle mense scolastiche. Fin qui la notizia del 27 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Il progetto Eat Well coinvolge l'Italia e altri 4 paesi europei sulla verifica delle politiche a favore di un'alimentazione sana. Attualmente il progetto è entrato nella fase di confronto con portatori di interessi ed esperti. Laura Gennaro, ricercatrice dell'INRAN. Diciamo che quelli che hanno più successo sicuramente e che sono più sostenuti da parte del pubblico sono gli interventi che riguardano l'educazione alimentare e la regolamentazione delle etichette, e quindi appunto tutti richiedono una maggior chiarezza delle etichette oltre all'educazione alimentare rivolta in particolare ai bambini. La cosa interessante che viene fuori fino adesso da questo progetto è che in realtà gli interventi di educazione alimentare che vengono svolti nelle scuole non hanno una grande efficacia rispetto al costo, per cui paradossalmente se si volesse considerare soltanto l'aspetto economico della cosa non dovrebbero essere raccomandati. Quando però si va a raccontare questa scoperta ai vari stakeholders, ai vari esperti dei vari paesi, viene fuori che sono tutti in assoluto disaccordo, proprio perché dare una maggiore informazione soprattutto ai bambini è principalmente un dovere etico per i vari paesi. Quello che bisognerebbe fare in realtà è poi avere una certa coerenza di comportamento, per esempio quello che viene detto ai bambini nelle scuole dovrebbe essere reperibile all'interno delle mense scolastiche, bisognerebbe quindi tenere tutta una serie di comportamenti coerenti a partire dalle merende che i bambini possono portare a scuola fino appunto al controllo del contenuto nutrizionale delle mense e di quello che ai nostri bambini viene offerto. Oltre questo diventa sempre più importante il coinvolgimento delle famiglie, che invece è sempre più difficile raggiungere. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.